trovato, ritrovato, magico, per combattere l'ipocondria, per dimenticare un fatto tragico che ha distrutto questa vita mia. Ero diventato quasi tisico, non mangiavo e ci bevevo su, io che ci tenevo tanto al fisico, nei miei panni non ci stavo più. Shabala da da da da, obla di obla da, shabala da da da, she love you, yeah, yeah, yeah. Mi portarono da uno psicologo, che allo studio sotto casa mia, mi ricordo disse un fatto analogo, me lo appunto per la biografia. Antidepressivi, estratti epatici, e col sesso non andava più, ho tentato coi filmetti erotici, ma ogni volta ricadevo giù. Shabadanda badanda, obla di obla da, shabadanda da, she love you, yeah, yeah, yeah. Per me che non sono un tipo pratico e che viaggia con la fantasia, mi affidai a un maestro indiano mitico e nel cosmo son volato via. Gli infermieri ancora che ci ridono quando mi portarono lassù, è una clinica speciale, dissero, Villa Sacro Cuore di Gesù. Shabadanda badanda, obla di obla da, shabadanda da da, she love you, yeah, yeah, yeah. Sono uscito che fa un anno giovedì, con la testa che girava un po', con le gambe molli e gli occhi lucidi, e mi ritrovai dentro il metrò. Ci ho trovato l'esperienza erotica, quella che ti fa gridare sì, era bella tanta e pneumatica, solo che non era donna lì. Shabadanda badanda, obla di obla da, shabadanda badanda, she love you, yeah, yeah, yeah. Ora passo il tempo a far l'amore, ho un'impugnatura eccezionale, e se fuori un altro giorno muore, non ci piango, non ci resto male. Così passo il tempo a far canzoni, jazz e musica tradizionale, mentre dentro a me qualcosa muore, ho il sospetto d'essere normale. Shabadanda badanda, obla di obla da, shabadanda da, she love you, yeah, yeah, yeah. Shabadanda badanda, obla di obla da, shabadanda da da, she love you, yeah, yeah, yeah. Shabadanda badanda, obla di obla da, shabadanda da, she love you, yeah, yeah, yeah. Shabadanda badanda, obla di obla da, shabadanda badanda, she love you, yeah, yeah, yeah. Shabadanda badanda, obla di obla da, shabadanda badanda, she love you, yeah, yeah, yeah. C'è un altro grande bluesman, si chiama Blind Lemon Jefferson. Ho visto un film qualche anno fa e mi colpì molto come trattava la chitarra a 12 corde, trattava come un fuscello, era molto agile, in realtà è molto difficile suonarla bene. E Lemon Jefferson mi ha insegnato un attimo come trattare lo strumento e come a volte pomiciarci un po'. È una cosa molto bella. Infatti io ho 30 anni che suono, in questo periodo faccio 30 anni di fidanzamento con la chitarra. Con mia moglie è durato 16 anni, con lei sono 30 anni e ancora va molto bene. Forse perché non parla. E quella sera dedicai a Blind Lemon questo blues.